Thank you. sono entrato. Perché? Perché non ti fa entrare? Forse perché tu devi fare i signin. C'è la registrazione. L'ho fatta all'inizio, io me lo ricordo. Vedi, suonano tutti, sono tutti a suonare. Io ho messo la cuffia. No, guarda, è micidiale, mi sono divertito un'ora, poi gli arrivai ai figli, arrivederci, andavi da acceso io, mi dà pace. Tu ci sei entrata allora? Sì, tu sei entrata. Ah no, sono io, Pischino. La mia immagine. Forse tu devi fare la registrazione, mi sa. Mi sa che tu devi fare la registrazione. Quelle basta? Su quella room lì? Non è che tu sei entrato in un'altra room? Non ce l'hai niente lì? Sì, no, non c'ho niente. No.